tuo parere i produttori fanno attenzione al risparmio energetico? C'è un interesse crescente? Allora, moltissimo, perché si vede già anche dalle campagne pubblicitarie, dalla segnalazione anche sullo stesso prodotto come pubblicità al corner, vediamo che c'è molta informazione. Proprio per questo il cliente sta continuando sempre più a chiederci informazioni sulle classi energetiche, risparmio l'ambiente. È importante fare informazione in punto vendita? In questo momento più che mai, perché proprio il punto vendita è il punto dove il cliente ha tutte le informazioni vere sul prodotto. Nunzio Conigliaro, tu sei un addetto alla vendita del reparto informatico. Sì. Qualche consiglio? Cosa spegniamo quando usciamo di casa? Ma sicuramente il router innanzitutto, perché è inutile tenerli accesi dato che non si utilizzano, e poi evitare anche di lasciare per esempio i TV in standby, perché comunque anche quelli possono avere, o i monitor in standby comunque possono in qualche modo incidere sui costi reali di energia elettrica. C'è una differenza marcata fra LED, plasma? Assolutamente sì, la nuova tecnologia LED sicuramente ha quasi un 40% di risparmio energetico sul prodotto acceso e anche in standby. Da un'indagine di mercato fatta qualche tempo fa si calcola che una famiglia che lascia almeno due TV in standby tutto l'anno incide circa 120 euro sul consumo energetico. Smartphone e tablet, anche per loro si può parlare di risparmio energetico? In certe occasioni sì, in altre no. Ci sono lo smartphone, essendo un telefono intelligente, per certi versi con le dovute applicazioni può andare in standby e quindi disattivare tutti i propri dispositivi affinché la batteria si possa conservare più a lungo e quindi consumare meno. E il tablet? Lo stesso, fa lo stesso. Importanza, insomma, in caso di non utilizzo, insomma, metterlo in funzione in modalità standby o onde evitare di continuare a tenerlo sotto carica. I famosi caricabatterie vanno sempre staccati? Ci sono altri accorgimenti che possiamo utilizzare? Assolutamente sì. Quando per esempio teniamo un computer, un notebook fermo sulla scrivania facente funzione desktop, è utile togliere la batteria e lasciare solo e esclusivamente l'alimentazione quando si va a lavorare. Quando finisce il tutto basta staccare via la spina, e quindi così si preserva sia lo stesso funzionamento del caricabatteria da eventuali picchi di tensione e sia lo stesso integrità della batteria. Quando il PC è spento dobbiamo togliere l'alimentatore? Assolutamente sì. Qual è il rischio? L'alimentazione stessa e quindi la possibilità di un picco di tensione che possa andare a inficiare il reale funzionamento dei connettori elettrici. Quindi non è solo una questione di risparmio energetico ma anche di funzionamento corretto di un apparecchio. Chiaramente l'apparecchio deve essere funzionante e restare funzionante in tutti i suoi parametri giusto quando lo dobbiamo utilizzare e non quando siamo fuori casa e quindi lasciarlo lì inutilmente acceso.